divinissima, triunca par sopra l'ora, a ogni poi vai tu sei morto, a ogni poi vai tu padre, a ogni di voi vai far oggi un seu padre, no vado. Ali na banquinha.